andiamo a vincere ancora! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano. Mancano 10 metri ora, vai Gregorio, andiamo a vincere, che si spalancano le porte, gli dei dell'Olimpo aprono le braccia, la scalata è terminata, Lampidoro, squarciano le tenebre, Gregorio Paltrinieri è campione alle Olimpiadi, medaglia d'oro. Ho sognato questo momento da tantissimo tempo, quindi è veramente incredibile essere qua adesso e averlo vinto veramente. Probabilmente non ho ancora capito, però è stato davvero bello. La Ducati c'entra una doppietta con due italiani, due Andrea. Giannone c'è davanti ad Andrea Dovizioso, davanti a Jorge Lorenzo e a Valentino Rossi in quarta posizione. Sicuramente me la godo, mi godo sempre ogni momento della vita, anche quelli brutti, perché mi fanno sorridere e mi insegnano sempre qualcosa. Quindi credo che noi abbiamo fatto un lavoro tutti quanti di squadra e peccato che l'anno prossimo ci separiamo con la Ducati, perché eravamo arrivati veramente a un livello molto, molto importante. C'è un filo lungo 9.721 chilometri, la distanza che corre tra Rio de Janeiro e la notte in cui le acque si sono colorate d'azzurro, e Zeltweg, l'avete sentito, Zeltweg in Austria questo pomeriggio, dove il colore dominante è stato il rosso italiano della Ducati di Giannone Dovizioso. 800 24 00 24, noi siamo qui in diretta fino alle 19, vi aspetto, Ad esempio, mi dovete dire qual è la vittoria che vi ha più emozionato in queste ultime ore. C'è anche Rossetti nello skit. C'è la doppietta della Ducati, c'è il quarto posto di Valentino Rossi, c'è quella cosa straordinaria che chi si è alzato ha visto questa notte, Gregorio Paltrinieri distruggere tutti sui 1500 stile libero, Gabriele Detti di rimonta prendersi la seconda medaglia di bronzo di questa straordinaria per lui Olimpiade. Una domenica tutta nostra da cerchiare sul calendario, da non dimenticare più, anticipata tra l'altro dall'altro oro di ieri sera, quello di Rossetti. Una domenica che magari ci regalerà altre emozioni. Leo Turrini, ciao. Come andiamo lì? Dobbiamo dire subito che l'Emilia Felix, perché la Ducati Borgo Panigale, Greg Paltrinieri di Carpi, insomma, che è quasi un tiro di schioppo. Tra l'altro oggi sono 28 anni dalla scomparsa di Enzo Ferrari, no? Che è stato il più grande emiliano, forse anche uno dei più grandi italiani del Novecento, e che sembra, insomma, da lassù quasi aver benedetto questi suoi conterranei. Sì, non si esce da quel triangolo oggi. Guarda, io ho fatto notte con Greg, devo dirti che è stata un'emozione fortissima. Ero con i suoi genitori, con la mamma Lorena, col papà Luca, con Letizia, la sua ragazza. E questo è un trionfo molto particolare. Io naturalmente rispetto in maniera uguale tutte le medaglie, perché ogni disciplina implica sacrificio, dedizione. Non è giusto fare graduatorio tra gli sport, ma fare nuoto in Italia è particolarmente complicato. Noi diciamo Phelps, che nella notte ha preso la 23esima. Sì, Phelps è un monumento. No, ma voglio dire, si è sbloccato Phelps con questa medaglia d'oro, la 23esima. No, adesso, a parte che questa battuta è di Dario Ricci, aspetta che lo saluto. Ciao Dario, buon pomeriggio anche a te da Rio, ragazzi, dalla mattinata di Rio. Saluto anche il maestro Leo. Sì. È stata una battuta, ma con grande umiltà. No, ma si è sbloccato perché era parso un po' intimorito. nelle ultime edizioni Michael Phelps, o per quei tre o quattro che non lo sapessero, Phelps è quello che, ho visto una grafica meravigliosa che qualcuno ha pubblicato su Twitter, io l'ho ripresa ma rubandola, mi autodenuncio, mettendo una sopra l'altra di taglio le 23 medaglie d'oro che ha conquistato in carriera alle Olimpiadi, avrebbe una pila più alta di lui, e non è basso Phelps, voi che l'avete visto da vicino mi confermate? No, sì, però sì, sai, no, quello che stavo dicendo, Dario, poi ti lascio la parola, è che appunto Phelps è il fenomeno dei fenomeni, ma nuotare a Baltimora, come in ogni città americana dove tutte le scuole hanno la piscina, non è la stessa cosa di riuscire a diventare grandi nuotatori in Italia, vale per Greg e vale per suo fratello gemello siamese Gabriele Detti. Cioè, è qualcosa di straordinario quello che questi due ragazzi hanno fatto, stanno facendo. Sono riusciti a proiettarsi nell'elite planetaria non avendo alle spalle un sistema paese come accade in altre nazioni. Quindi io penso che sia legittimo avere un sentimento di orgoglio fortissimo per quello che hanno realizzato. Sì, tra l'altro siamo ancora nella top 10 del medagliere, noi col nostro sistema un po' sgarruppato siamo lì, in questo momento siamo ottavi con le nostre 18 medaglie, 6 d'oro, 7 d'argento e 5 di bronzo. Noi abbiamo un sistema che non regala le piscine a tutte le scuole, ma che questa notte ha gioito, tutto insieme il sistema, e non farmi dire altro, Leo, per la vittoria di Paltrinieri, erano tutti svegli, anche quelli che le piscine dovrebbero costruirle. Dario Ricci, mi racconti invece cosa è successo, cosa sta succedendo nella mattinata di Rio? Guarda, qua sono proprio al poligono dove puntiamo forte su Niccolò Campriani. Prima Leo parlava di tiro di schioppo, ecco, fortunatamente Niccolò ha messo al centro quelli giusti nelle qualificazioni della carabina da tre posizioni 50 metri, è entrato per l'otto della cuffia con l'ottava e ultima posizione utile nella finale, malgrado un 9.2 che a questi livelli è praticamente un tiro sbagliato proprio nell'ultimo tiro nella sessione in piedi. Quindi Campriani in finale, peccato invece che è naufragato l'altro azzurro, De Nicolo, che era stato a lungo addirittura in testa, anche in seconda posizione, poi alla fine ha chiuso addirittura 27esimo. Quindi però fra poco alle 18 italiane, le 13 locali, c'è la finale, e Campriani, lo ricordiamo, in questa specialità Giovanni difende il titolo olimpico. Poi puntiamo forte pure sui ragazzi della strada che sono in semifinale nella prova squadre contro l'Ucraina dopo aver asfaltato la Svizzera nel primo turno, e poi alle 19, alle vostre 19, alle 14 locali c'è la medal race del windsurf con la Tartaglini che sta veramente facendo una prova finora straordinaria, ma manca questa regata per mettersi al collo una medaglia. E poi c'è Tania Cagnotto alle 16 locale, alle 21 esattamente, che insegue questa medaglia individuale dopo aver preso il bronzo nel singolo con Francesca Dall'Apè. Ieri una Tania non brillantissima nelle qualificazioni, no, che ha pasticciato un po', ci ha anche fatto tremare a un certo punto. Sì, è entrata col settimo punteggio di qualificazione, devo dire che quella piscina sembra metterla un po' a disagio, sarà per quell'acqua verde torbida che insomma forse l'idea è un po' respingente per chi deve tuffarci di dentro, però è anche vero che chiaramente non è questo il problema, e sicuramente poi ieri era importante entrarci nella finale, oggi si tuffa per tutt'altro obiettivo e con tutt'altro spirito. Attenzione alla canadese Abel, che già ci ha fatto male a Londra 4 anni fa. Quindi alle 18 la prima finale, quella di Niccolò Campriani, che seguiremo in diretta a partire alle 18 con te, Dario Ricci. Quindi ci sentiamo tra circa 45 minuti. Ciao Dario. A dopo, ciao ragazzi. A dopo. Leo, ti racconto anche com'è andata la maratona femminile, che è stata vinta dalla keniana Sumgong, seconda l'atleta del Bahrain, la Kirwa, poi l'etiope Mare Dibaba. La nostra Valeria Straneo, 13esima, staccata di 5 minuti e 40 secondi, ma con la miglior prestazione stagionale. Poi Caterin Bertone, 25esima, e risulta ritirata Anna Incerti. Questo per quanto riguarda la maratona femminile. Poi questa notte, carissimo Leo, ore 3:25 italiane, la finale dei 100, che è la gara più attesa di cui avremo modo di parlare anche in questo nostro appuntamento. Mi pare però che in questa domenica tutta italiana noi abbiamo anche ragione di esprimerci, Leo, con un po' di orgoglio. È vero che tu dici non tutte le medaglie sono uguali, però è vero anche che quell'ottavo posto nel medagliere a metà abbondante di Olimpiade deve assolutamente riempirci di orgoglio. Io ho detto che tutte le medaglie invece meritano uguale rispetto, semplicemente quando tu sei nel nuoto, nell'atletica leggera, davvero lì la competizione è planetaria, hai capito? In questo senso qui, ma le medaglie sono tutte belle, sono tutte uguali, ma lasciami però anche infilare una nota triste, caro Giovanni, perché sai quanto io ci tenessi. Tu sai cos'è capitato prima della gara di Greg? Temo di saperlo. Ai noi, racconta. Finale dei tappeti elastici, trampolini elastici, come volete, ginnastica. Per me la gara più importante dei giochi dopo quella di mio nipotino Padrinieri, il mio idolo personale, Dong Dong, cinese, campione in carica da Londra 2012, è stato battuto, ai noi, da un bielorusso. Una cosa sconcertante, veramente è mai come vista. Quando Muhammad Ali venne sconfitto da Leon Spinks, hai capito? Quelle cose che capitano, ma tu rimani basito. Dong Dong, uno, un nome, tutto un programma saltellare sui tappeti, non ce l'ha fatta concedere il bis. Meno male che mezz'ora dopo Greg ha fatto questa cosa, devo dire, persino impressionante, perché tutti gli esperti mi avevano detto prima dello start, dovrà un po' gestirla, no? Contenere le energie. Sì, ha gestito. Perché è una gara lunga, perché quegli altri e tutto, poi agli ultimi 100 metri bisogna sparare, spendere ogni risorsa. A 150 metri, non dall'arrivo, dopo la partenza, era già solo, no? Una cosa, devo dire, è stata una cavalcata. Infatti dopo abbiamo parlato un po', e mi ha detto, no, ma guarda, io Morini, che è il suo allenatore, il suo mentore, ci era tanto raccomandato appunto di partire con prudenza, e io ho fatto esattamente l'opposto. Un po' come quelli che consigliavano le partenze intelligenti tanto tempo fa, e si partiva tutti il primo sabato di agosto. Quindi fantozzi che c'è, la partenza intelligente, erano tutti interrati in autostrada alle 3 di notte. No, insomma, lui ha avuto anche questa abilità di governare la tensione, perché effettivamente questa era la medaglia italiana più annunciata di tutte, no? Lo sappiamo, a maggior ragione poi, visti i problemi che ha avuto il cinese su Yang nelle qualificazioni, tutti a dire Patrinieri possono vincere, e lui questa cosa la sentiva, infatti mi ha raccontato, mi ha detto, guarda, io quando ho fatto il tuffo per entrare in acqua per la finale mi sembrava di pesare 1500 kg, perché avevo questa zavorra addosso, no? Che o primo, oro, cioè qualunque altro risultato di Greg, anche se fosse arrivato il secondo battuto di un 2 centesimi, l'avremmo classificata delusione, siamo sinceri, bravo. Avremmo parlato quindi di delusione. Si è tolto un chilo per metro, è stato formidabile proprio a liberarsi di questo peso, bracciata dopo bracciata. E poi, come ha detto anche Morini, insomma, a festa consumata, lui come Gabriele Detti, perché non dobbiamo dimenticare che c'è un altro ragazzo italiano sul podio del 2005, sono campioni nella testa, perché tu se no non puoi a 17 anni andare ad Ostia, nuotare tutti i giorni quasi per 20 km, per 350 giorni all'anno, provate a moltiplicare, poi ci mettete gli anni di preparazione, insomma, quasi Greg e Gabriele hanno nuotato la distanza dalla Terra alla Luna, ci vuole una dedizione, una convinzione in quello che si sta facendo, che li rende unici, perché se non hai la testa tu nei 1500 stile libero non puoi vincere. No, non li fai, non vinci, ma proprio non li prepari nemmeno. Leo, stai lì, 800 24 00 24. C'è Nicola da Milano che si è già prenotato, dopo il traffico lo facciamo. Io voglio sapere qual è l'emozione più grande fin qui di questa vostra domenica, una domenica che è iniziata questa notte, alle 3 italiane con Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, poi la Ducati, ma potete citarmi quella che volete, magari la prossima, quella che aspettiamo, ad esempio l'ultima gara olimpica di Tania Cagnotto. Traffico. Italia, ragazzi, è la numero uno, non c'è niente da fare, non ci batte nessuno. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti si aspettavano questa medaglia, sembrava quasi scontato, ma scontato non è mai in queste occasioni, anzi gli altri sembravano molto più sicuri di me, io non avevo paura di niente in particolare, però è una finale olimpica e mi è arrivata una botta clamorosa a un certo punto, però sono veramente contento perché è qualcosa di indescrivibile. A parità di... avendoli provati entrambi... Da solo ha fatto un certo tipo di effetto, comunque l'emozione e tutto. In due, questo podio, che insomma sono 5 anni che ci andiamo insieme e lo sogniamo, è qualcosa di speciale, c'è un qualcosa in più. Queste sono le grandi vittorie, 349-238-6666 via sms e whatsapp. C'è chi dice che forse l'emozione più violenta è quella di Rossetti, perché alla prima Olimpiade e se l'è giocata all'ultimo proiettile. Walter invece definisce la vittoria della Ducati la vittoria di Pirro, perché poi l'anno prossimo ci sarà Lorenzo in sella e poi magari la domenica prossima tornano gli altri. 800 24 00 24, raccontatemi la vostra emozione più grande di queste giornate olimpiche. Nicola, sì, ciao, grazie, ciao a tutti, grazie della convocazione. Dai. Senti, volevo interrompere un attimo questa grandissima festa per l'oro conquistato da Paltrinieri, sì, perché volevo portare alla vostra attenzione un episodio veramente, secondo me, increscioso, vergognoso, successo, non so se hai presente, il judoka egiziano che si è rifiutato di stringere la mano all'atleta di Israele. Esatto, è stata una cosa veramente vergognosa, io non riesco a concepire una cosa del genere, cioè contrario proprio a tutti, allo spirito olimpico, cioè voglio dire... non riesco proprio a... secondo voi, cioè, potrebbe essere paragonato a un dopato, cioè uno che fa un'azione del genere? No, paragonato a un dopato no, però Leo, ti giro anche questo messaggio che ha scritto un amico prima, adesso lo sto cercando. C'è chi dice vorrei venissero presi seri provvedimenti dal CIO contro questo gesto, e non so che cosa pensi tu. No, guarda, io penso, ne ho scritto sui miei giornali, Carlino, Nazione, Giorno, perché ci sono stati due episodi, se vogliamo, contrapposti in questi giorni, no? La ragazza dell'Arabia Saudita che ha potuto gareggiare sui 100 metri nonostante l'opposizione del suo governo, perché in Arabia Saudita alle donne non è permesso fare sport, però il CIO ha una regola che impone ai comitati olimpici nazionali di avere almeno una donna in gara, se no ti fanno stare a casa. E quindi i sceicchi si sono dovuti piegare e questa ragazza, naturalmente tutta coperta dalle caviglie alla testa, ha potuto coronare il suo sogno, ha fatto i 100 metri in batteria in 16 secondi. Questo è un segnale positivo di come il movimento olimpico possa, diciamo così, favorire uno sviluppo in senso buono, no? Di quelle che sono tutte le grandi tematiche planetarie. E il rovescio della medaglia, dato che siamo ai giochi, ha ragione l'amico che abbiamo sentito al telefono, è questo judoka egiziano che si rifiuta di stringere la mano all'israeliano. Tra l'altro io ho guardato, tutti e due questi ragazzi sono nati quando tra Egitto e Israele era, come è tuttora in vigore, un trattato di pace che fu firmato nel 1978. Non voglio dire l'odio, ma l'astio comunque sappiamo che è il veleno del mondo. Io ho sentito anche i ragazzi israeliani raccontare da quando siamo qui che ci sono alcuni loro colleghi al villaggio che quando scoprono il tavolo della mensa che sono capitati per caso vicini a ragazzi e ragazze di Israele si alzano e se ne vanno. Sì, ecco. Sono cose bruttissime, anzi vorrei dire di più, oscene, tra l'altro 44 anni dopo la strage di Monaco. Ma al mondo come io non so Leo, se la soluzione sia buttare fuori qualcuno, se sia punire, se sia trattarli come dopati, io non lo so. No, questo non lo so nemmeno io. Non lo so. Dobbiamo renderci conto, Giovanni, e noi in questa trasmissione ce lo siamo già detti, niente come un'Olimpiade è lo specchio del mondo. Purtroppo al mondo ci sono anche le cose brutte, ma io sono d'accordo, e ripeto, l'ho anche scritto con chi ha telefonato prima, io trovo inconcepibile che un atleta, in questo caso un judoka, affronti un avversario, ma che sia l'Olimpiade o il Mondiale, non è questione di competizione, e poi sulla base di un pregiudizio, chiamiamolo etnico, quello che è, si rifiuta di stringergli la mano. Questo secondo me è certamente inaccettabile. Contro tutti, no, è inaccettabile, è contro qualsiasi cosa. Dello sport, della vita, sì, voglio dello sport dire, non no, solo, dello sport poi non dopo, solo, sarebbe uguale in un dopo, qualunque altro contesto. Ecco, bravo. Poi dopo da lì arrivare a suggerire che allora bisogna buttare fuori dall'Olimpiade chi ha questi atteggiamenti di rifiuto, non lo so, penso che bisognerebbe fare una riflessione, perché con i governi che ci sono in circolazione sulla faccia del pianeta rischiamo di mandare a casa un terzo degli atleti che sono qui, anche perché poi spesso, magari non è il caso dell'egiziano, questi ragazzi o queste ragazze obbediscono agli ordini del loro governo, ai quali non si possono sottrarre. No, chiaro. Non è semplicissimo. Leo, ti faccio sentire un audio del 20 settembre 2000 e poi salutiamo un graditissimo ospite. Domenico Fioravanti è lanciato verso il secondo oro, se non fosse lui diremmo che l'ha già vinto. Ma un'accelerazione incredibile, terzi. Guarda 50, adesso cosa si fa? Viene fuori l'australiano, attento Domenico. È primo. Medaglia d'oro, il secondo oro. Domenico Fioravanti con 2:10.87. Rumolo terzo. No, è sì, è bronzo. Che gara incredibile, La doppietta sognata per tanto tempo, e possiamo dirlo, noi siamo più contenti per Rumolo che per Fioravanti, sembra un paradosso, ma è così. E un cuore i brividi, Domenico Fioravanti, buon pomeriggio, ciao. Buon pomeriggio, ciao a tutti. 15 anni, 10 mesi e 4 giorni dopo. Io non so se questa notte tu ti sei alzato, non so se hai rivisto e rivissuto qualcosa di quel pomeriggio di Sydney. Devo essere sincero, non ce l'ho fatta a star sveglio. ho visto poi questa mattina i telegiornali, sono molto, molto contento sia per Paltrinieri che per Detti, soprattutto per Greg, che è un ragazzo fantastico, se l'è meritata, e devo dire che già alla vigilia ero non convinto di più che potesse vincere questo 1500 metri, perché era davvero l'unico in grado di vincerlo, appunto. Ho rivisto quel video, tu hai avuto una reazione diversissima da quella di Paltrinieri, come se l'oro di Greg fosse programmato e il tuo quasi un urlo di liberazione. Beh sì, il mio è stato un urlo di liberazione, perché il 200 l'ho sempre digerito un po' pochino, e se vogliamo quello è stato un po' più la medaglia del mio vecchio allenatore Castagnetti, che invece ci credeva forse molto più di me in quel periodo. Ha ragione Leo Turrini, che adesso ti giro, a dire che una medaglia nel nuoto in Italia è una medaglia che vale quasi di più, visto da dove partite, dalle difficoltà, dalle strutture che non ci sono. Beh, questo è vero, adesso non è per voler fare nessun tipo di polemica, ma purtroppo è così. Noi in Italia abbiamo poche strutture, abbiamo sempre bisogno di emigrare all'estero per poter programmare una stagione in un certo modo, e quindi per quanto riguarda il nuoto, una medaglia conquistata a un'Olimpiade vale molto più che in altri paesi, se pensiamo anche solo in America, ma vabbè, l'America è molto più grande del nostro paese, ha una tradizione sicuramente maggiore in questo sport come in tanti altri, quindi dobbiamo fare con quello che abbiamo, insomma. Leo, intanto io saluto Domenico, perché ero a Sydney, sì, si dice tante volte, magari esagerando, il tale ha riscritto la storia, ma nel caso di Fioravanti è vero, perché fu il primo italiano a vincere l'oro olimpico. No, volevo chiedere, Fiore, se pensi che Phelps si sia sbloccato dopo questo oro di ieri sera. Sbloccato in che senso? No, nel senso che ha detto che si ritira. Secondo te si ritira veramente dopo la 23esima medaglia d'oro oppure torna a Tokyo? Perché sai che questo dopo ogni Olimpiade dice basta, no? Poi torna a casa, si mette a fumare narghilè, a rollare cannoni, lo arrestano per guida ubriaco, è l'unica soluzione la piscina. Quindi dimmi cosa prevedi per il futuro di Phelps di qui a Tokyo 2020. Ma poi basta vincere un paio di medaglie alle Olimpiadi e tutto viene messo nel dimenticatoio, quindi non lo so, io mi sarei già ritirato da parecchio tempo al posto suo, anche con una decina di medaglie in meno. Ma che dire, credo che non ci siano atleti come lui, perché dopo quasi 2 anni di inattività tornare a 31 anni, vincere ancora medaglie d'oro alle Olimpiadi. Insomma, è vero che ha perso quella dei 100 delfino, però insomma, con quello che ha fatto credo che possa ritenersi abbastanza soddisfatto. Io penserei anche al futuro al di fuori dell'acqua a questo punto. Ecco, senti, invece a proposito di futuro, perché sia Greg che Gabriele sono giovanissimi, tu che proiezione di carriera immagini per loro? Sono molto giovane, è vero, 21 anni, io mi ricordo Gregorio nel 2011 a un campionato del mondo dove io ero inviato per la Rai e già comunque si vedevano le doti tecniche di questo ragazzo. Oggi a 21 anni secondo me la carriera di un nuotatore si è allungata, questo è vero, però in queste distanze dove la fatica è tanta e dove gli allenamenti sono molto intensi, forse rispetto a un velocista è un po' più breve, però voglio dire fino a almeno al 2024 diciamo, non dico che siamo tranquilli, ma è abbastanza veritiera come previsione. Sì, un paio di Olimpiadi ce le abbiamo ancora con Patrini e Detti. Immagino che l'idea di programmarsi un futuro possa essere estendibile a Federica Pellegrini. Domenico, tu la conosci bene. Lei dice tornerò in acqua perché è quello che mi piace fare. Cosa hai letto dietro, insomma, dietro la sua Olimpiade? No, ma sai, guarda, io credo che per qualsiasi atleta sia difficilissimo dire basta, soprattutto quando in una stagione non ottieni quello che invece avresti dovuto ottenere, perché comunque ricordiamoci che è anche vero che lei sono 12 anni che ha certi livelli, quindi poi per una ragazza è anche molto più complicato secondo me rispetto a un maschio. 12 anni ad alto livello è una carriera di tutto rispetto, però abbandonare, chiudere con lo sport dopo una grossa delusione, secondo me invece lei vorrebbe chiudere in bellezza come penso tutti gli atleti, ma conoscendola credo che voglia ributtarsi in acqua per chiudere appunto con un buon risultato. Sì. Ma è sempre più difficile comunque 28 anni. No, 28 anni comincia. È vero che Phelps a 31 ha fatto tutto quello che ha fatto in questa Olimpiade. Ma sono tutti come Phelps. Non sono tutti come Phelps o come. Non ricordo il nome, mi sfugge in questo momento, quello che è tornato a vincere nei 50 stile libero dopo una vita che Ervin. Non vinceva. Ervin, eccolo lì. Mi dai un voto prima del meteo al nuoto italiano in questa Olimpiade? È difficile dare una sufficienza piena, perché comunque al di là delle medaglie prese da Paltrinieri e Detti, devo essere... non dico cattivo ma un po' realista, e quindi è un'Olimpiade che non è stata molto positiva per la squadra azzurra di nuoto, perché comunque ci sono stati grossi risultati negativi da parte di moltissimi nuotatori, quindi io darei un'insufficienza, però è chiaro che poi è sempre brutto dire queste cose perché come in tutti gli sport si lavora 4 anni per un'Olimpiade e quando poi va male ti girano, e dispiace, però questo è lo sport. Grazie Domenico. A voi. Grazie Domenico Fioravanti. Abbiamo il meteo, però ti giro, Leo, questo messaggio. Ho notato che la Corea del Sud ha una sproporzione di medaglie d'oro, non è che le hanno vinte tutte nel tappeto elastico? Infieriscono, infieriscono. Sono sotto shock per Dong Dong, veramente, un grandissimo dolore. Vabbè, però Tokyo è dietro l'angolo, come ha detto Phelps, sì. E quindi ci rifaremo. Anche Dong Dong ci sarà, questo possiamo certo, garantirlo. 800-24-0024, c'è già Luigi da Lodi, ci fermiamo, torniamo subito. Hai paura di sentirti appagato da questi due bronzi? Guardami in faccia. No. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Convocati. 800-24-0024, aspetto la vostra classifica sulle emozioni olimpiche vissute fin qui. C'è chi dice: voi in che mondo vivete, le Olimpiadi e non, o non le etnie del mondo si odiano, soprattutto a causa delle religioni, Silvano da Vicenza, oppure Claudio da Torino. Fosse successo il contrario, cioè un israeliano che non stringeva la mano a un arabo, avrebbero espulso Israele, invece niente, è una vergogna. Io non credo, Leo, si possa fare una classifica tra vergogne. No, ma io volevo dire a proposito del primo SMS, non è che noi non lo sappiamo. No, lo sappiamo. Abbiamo detto che l'Olimpiade è lo specchio del mondo, anche del brutto del mondo. E per quanto riguarda il secondo intervento, è certamente vero che gli atleti israeliani non hanno mai in alcuna occasione manifestato una mancanza di rispetto nei confronti dei loro rivali, da qualunque angolo di mondo provenissero. Però, ripeto, se poi uno vuole negare la realtà del pianeta, quello che succede, purtroppo, sottolineo purtroppo, sarebbe una comoda illusione. Questi sono i tempi nei quali ci è dato vivere, occorre prenderne atto dolorosamente, sottolineo. Luigi. Buonasera. Eccoci. Un po' di polemica. Sì. Cosa ne pensate di tutti questi militari nostri partecipanti, al di là dei ragazzi che sono tutti bravi, ma perché militari? Perché credo sia l'unico modo per campare e fare sport. Il CONI, cosa ci sta a fare? Leo, che ci sta a fare il CONI? No, è una domanda interessante, ma c'è una spiegazione, se mi date un minuto. Sì. Però fin quando in Italia non c'erano le scommesse sportive e spopolava il totocalcio, il 50% delle entrate da totocalcio andava al CONI. Quindi il CONI poteva permettersi di finanziare le federazioni, pagare gli allenatori e tutto il resto. Poi sappiamo quello che è successo negli ultimi 10-15 anni. Quella che era la valvola finanziaria dello sport italiano, per un'intuizione di Giulio Onesti, allora presidente del CONI, e di Giulio Andreotti, pensate un po', alla fine degli anni 40, quel polmone finanziario si è esaurito. A quel punto ci si è trovati in una condizione nella quale tutti questi ragazzi che non sono calciatori, che quindi non hanno ingaggi, non hanno sponsorizzazioni eccellenti, tipo rarissimi casi individuali, no? Penso a Pellegrini, è talmente popolare che poi fa gli spot pubblicitari e così via, ma tutti questi ragazzi, tutte queste ragazze che fanno sport e che si debbono impegnare quotidianamente per poter venire all'Olimpiade e non sempre riuscendo a conquistare una medaglia, hanno la necessità quantomeno di poter fare il loro mestiere di agonisti 8 ore al giorno, anche più se necessario, percependo un compenso, se no nessuno potrebbe permettersi, a meno di essere figli di Trump o di Berlusconi. Sì. Allora la soluzione che venne trovata una quindicina di anni fa fu quella di aprire a questi atleti maschi e femmine le porte dei corpi militari dello Stato, che hanno i loro gruppi sportivi, e in questa maniera, se non altro, questi nostri olimpionici riescono a percepire quei 1.200-1.300 euro al mese e fanno gli sportivi di professione e, volendo, poi una volta che si ritirino, se non smettono la divisa, hanno anche un posto fisso per il dopo. Questo Leo è anche il motivo per cui io trovo sterili le polemiche sulle apparizioni che poi nei mesi successivi alle Olimpiadi, soprattutto quelli che sono un po' più in vista, fanno in televisione, pubblicità e tante altre cose. Chiedono il momento, anche il momento di monetizzare. C'è già un grande ospite in linea, parliamo un po' di pallavolo. Grandissima prova dell'Italia, perché vincere qua, come ho detto prima, al Maracanasigno, pieno di tifosi, contro un Brasile che secondo me è ancora la favorita perché gioca in casa, non era facile, l'abbiamo fatto, non abbiamo mollato una pala, siamo veramente contentissimi. Detto questo, ho detto a tutti i ragazzi piedi per terra, perché comunque siamo primi dei gruppi, però non abbiamo fatto fino ad oggi niente. Abbiamo vinto il girone, per cui aspettiamo la quarta di là, non sottovalutiamo nessuno, rispettiamo tutti, però questa Italia c'è e quindi vuole andare avanti fino alla fine. Per celebrare l'Italia del volley, che questa notte ha battuto il Brasile e non accadeva da 8 sconfitte di fila prima di questa notte, carissimo Leo, abbiamo chiamato qualcuno che al Maracasigno sa come si vince. Paolo Tofoli, ciao, buonasera. Ciao a tutti, un saluto caloroso anche al mitico Leo. Il mitico Leo. No, il mitico Paolino Tofoli, palleggiatore, campione del mondo 90-94. Poi devo dire, dato che sono in Brasile, no? Sì. È qui che nacque la leggenda dell'Ital Volley, prima volta iridata nel 90 con Tofoli in regia, e soprattutto la leggenda di Tofoli cubista, perché Tofoli ballava sui cubi, è una cosa pazzesca, non potete immaginare quest'uomo di quali contorcimenti era capace, altro che di pirouettare sul campo per alzare per Zosio, per Lucchetta. In realtà Tofoli avrebbe dovuto fare il ballerino, sai che, anzi vi do una notizia in più e poi mi taccio. Gli volevano offrire un posto in una scuola di samba qui, come insegnante, hai capito? Al Sambodromo, Paolino Tofoli o San Beador, dicevano tutti. Sì, in particolare. Confermi Paolo? Sì. No, come esagere. Ho giocato a pallavolo discretamente, basta, dai, a ballare me la cavavo. Sì, evidentemente hai lasciato dei ricordi in Brasile. No, giocavo a pallavolo, dai, discretamente. Senti un po', ma che sensazione ti dà questa nazionale che, ripeto, dopo 8 è tornata a battere Brasile nei giochi olimpici e tra l'altro in casa sua questa notte? Ma ha fatto una grande impressione, sta giocando molto bene e, diciamo, ha le carte in regola per vincere una medaglia, magari anche la medaglia d'oro olimpica, che a noi ci è sempre sfuggita. Speriamo, incrociamo le dita, perché vincere la medaglia d'oro in questo momento sarebbe anche un bel trampolino di lancio, una bella spinta per il momento della pallavolo. In questo momento un po', diciamo, tra virgolette, di crisi, vincere una medaglia d'oro adesso sarebbe esaltante. Ma ti dà la sensazione che sia scattato qualcosa in questo gruppo? Cioè quella magia che ogni tanto capita, oltre alla preparazione, certo, al talento, a tutto il resto. Ma certo, no, ma sicuramente è scattato qualcosa. Nessuno magari dava tanto credito a questa nazionale con tanti problemi, con questo allenatore nuovo, Bringino, allenatore giovane. Invece stanno facendo molto bene, secondo me è un gran gruppo compattato, amalgamato, affiatato, e secondo me possiamo ottenere grandi risultati. Certo, dobbiamo rimanere umili con i piedi saldamente a terra, perché ancora c'è un'ultima partita del girone e poi dopo ci saranno i quarti, chi perde esce. Ogni partita sarà una lotta da giocare con il coltello fra i denti, però, diciamo, non ci possiamo nascondere, siamo una squadra che può vincere la medaglia d'oro. Leo? Ma guarda, allora, io sono andato a vederli contro gli Stati Uniti, i nostri ragazzi, e mi hanno impressionato. Tra l'altro gli americani non è che siano scarsi, come qualcuno ha detto dopo la loro sconfitta contro gli azzurri, se uno va a vedere i risultati che hanno fatto. Noi stiamo giocando veramente bene. Ieri sera sono riuscito a vedere i 2 finali dopo l'impresa di Greg lì al centro stampa del nuoto, e in certi tratti sembrava di rivedere la grande Italia di Toffoli e di Velasco. Cioè, impressionanti. È una pallavolo diversissima rispetto a 20 fa, sono cambiate le regole. Però, insomma, c'è la sensazione che all'interno di questo gruppo stia crescendo la convinzione di riuscire a realizzare qualcosa di straordinario, anche perché i brasiliani che giocano in casa sono messi malissimo, hanno già perso due partite, adesso devono giocare con la Francia, teoricamente per assurdo sono anche a rischio di eliminazione. Però c'è una cosa da tenere presente che Paolo sa benissimo, è il girone conta fino a un certo punto. Io mi ricordo ad Atlanta 20 anni fa, abbiamo asfaltato l'Olanda nel girone e poi purtroppo perso la finale per due palloni. A Sydney abbiamo demolito la Serbia nel girone e poi non l'abbiamo vista mai nella semifinale. Il vero inizio del torneo di volley è da mercoledì, quando c'è il tabellone dei quarti di finale. Lì è dentro o fuori, vincere o morire, e speriamo che i ragazzi di Blengini ci arrivino con la testa sgombra e la motivazione fortissima che hanno dimostrato fino a... Cambia tutto, Paolo, tra girone e quarti di finale? Sì, no, ha perfettamente ragione Leo. Sì, sono tutti in quel girone, giochi magari più tranquillo, certo, dopo in base alla posizione come arrivi, primo, secondo, terzo, quarto. Però dopo quando cominci i quarti, che dentro o fuori la palla lì brucia, scotta, quindi lì bisogna tirare fuori gli attributi. Ripeto, l'Italia ha dimostrato di essere forte, sono tante nazionali forti, che anche nell'altro girone, la Russia, la Polonia, l'Argentina di Velasco, l'Iran non è una brutta squadra, quindi dopo là bisogna vedere di che pasta siamo fatti. Però ecco, sono molto fiducioso, ho visto una nazionale che molto compattata, c'è il gruppo e poi insomma anche grandi giocatori che da Zajce, Guantoregna, insomma giocatori importanti, con un pareggiatore giovane ma che ha grandissima personalità che è Giannelli, che sta giocando bene, quindi sono fiducioso, ripeto, incrocio le dita e speriamo che si ottenga un grande risultato, perché la pallavolo adesso sarebbe una grande spinta. E poi c'è da riscuotere un credito con il destino ai giochi, ed è inutile ripetere per la millesima volta in queste due settimane lo so. Credito è quello della squadra più forte del secolo, grosso. Che è molto grosso. A noi ci grosso. Mancava la medaglia d'oro per coronare una grandissima carriera, diciamo, la ciliegina sulla torta, no? Avevamo vinto tutto, non ci siamo riusciti, due argenti, un bronzo. Ancora adesso, io, per esempio, alla finale dell'Atlanta dico sempre che abbiamo perso l'oro, non dico che abbiamo vinto l'argento, anche se ci pensiamo bene, vincere una medaglia all'Olimpiade è una grandissima cosa, anche già partecipare all'Olimpiade, però ancora al nostro gruppo brucia, quindi ancora in questo momento io dico che ho perso la medaglia d'oro, non ho vinto la medaglia d'argento. Paolo, ti rubo ancora un minuto, poi c'è il traffico. Sì. Ti giro un messaggio che è arrivato 349-238-6666. Ti chiedono di spiegare che cosa è successo alla nazionale femminile, l'altra faccia della medaglia. Beh, lì in parte sono stato coinvolto anch'io, perché io ero con Mencarelli nel 2013, dopo praticamente esonerarono Mencarelli, misero Bonitta come allenatore perché Magri lì ebbe paura che c'era il mondiale dopo, però a noi si era chiesto di rifondare la nazionale femminile con giovani per puntare alle Olimpiadi. Bonitta ha chiamato giocatrici, però ha chiamato tante, quest'anno mi sono 40 giocatrici, ha cambiato sempre tante formazioni. Per me non c'è, la critica che potrei fare io è che non si è seguita una linea, diciamo, di rifondazione, di puntare sulle giovani per puntare alle Olimpiadi. Si è richiamato molte veterane, però non ci sei riuscito. Peccato, perché potevamo fare anche bella figura nel femminile. Adesso ci sarà, penso, per il prossimo anno una grande rifondazione per puntare sulle giovani. Poi è normale che uno, quando punta sulle giovani, i primi anni si può perdere, sì, deve anche aspettare. Sì, certo, deve anche aspettare, altrimenti vuol dire ripartire da zero ogni volta. Grazie Paolo. Grazie a voi, un saluto, un abbraccio a Leo. Grazie. Sì, al mitico Leo, per il quale poi ho una grande domanda, ma ho anche un altro grande ospite. Allora, lo saluto subito, Vincenzo Mangiacapre. Ciao Vincenzo. È caduto? Beh, c'è il traffico, lo recuperiamo. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Tutti convocati. Sicuramente avrò sbagliato qualcosa nella programmazione, qualcosa nella gestione della squadra. Adesso mo che rientro a casa a bocce ferme, vedrò il da farsi, vedrò le decisioni che prenderò. C'è la possibilità, l'ipotesi che sta pensando di lasciare il ruolo? Adesso, in questo momento come sto adesso, può darsi, adesso vedremo quando rientro, ripeto, adesso è troppo caldo il momento, è troppo breve, però io aspetterò e vedrò anche la decisione della federazione stessa. Io sono molto sereno, ho fatto il massimo, è andata così. Questo era Bergamasco, CT della box italiana, Vincenzo Mangiacapre. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Perché Leo, raccontiamo una delle storie sfortunate di questa nostra Olimpiade, quella di Vincenzo Mangiacapre, vittoria nel primo match combattuto a Rio de Janeiro, poi però la rottura dello zigomo, costretto a tornare a casa. La box italiana non è che sia andata benissimo, Leo, in questa Olimpiade. Mangiacapre è stato sfortunato come Nibali, se mi passate il paragone, nel senso che quando ti capita l'incidente nel ciclismo, come nel pugilato, nel ciclismo si cade, nel pugilato per altri motivi, insomma, sono situazioni che possono accadere. Io però volevo dire una cosa, al di là del risultato, certamente non brillante, della spedizione. Guardate che in Italia, con la nascita delle palestre popolari, no, che è un fenomeno che si sta sviluppando in maniera molto intensa, sta tornando un'attenzione sana per il pugilato, Io non sono così negativo per il futuro, e poi vorrei invitare tutti a fare il tifo per la nostra ragazzina Irma Testa, che domani torna sul ring, incontra un'avversaria che mi dicono fortissima, ma io ho trascorso qualche minuto con Irma dopo il suo primo match, è veramente un personaggio fantastico, un testimonial non solo della box, ma vorrei dire dello sport delizioso. Vincenzo, è vero che abbiamo un futuro migliore del presente? Almeno a giudicare dai risultati di Rio? Ma diciamo che siamo stati un po' sfortunati, come si è visto anche nei sorteggi, e noi abbiamo fatto di tutto. Io con questa rottura dello zigomo mi ha proprio demoralizzato, mi ha buttato a terra, perché sai, quando uno perde uno si segna e va avanti, ma con la vittoria e sapendo di non poter disputare il prossimo match che ti portava ai quarti, è stata dura. E ci abbiamo buoni presupposti per il futuro, ragazzi giovani come Vianello, come il nuovo Cappai, che possiamo dire la nostra a Tokyo. Dobbiamo aspettare altri quattro anni di sacrificio, però con solo e un unico obiettivo, quello di riprendere la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Quanto ci vuole a smaltire la delusione di dover tornare a casa come te per un infortunio? Ma diciamo che io non l'ho smaltita ancora, perché comunque è una cosa che ti resta dentro, però bisogna rialzarsi, come dicevo pure ai miei amici, bisogna alzarsi e non guardare indietro. Tu comunque, io voglio aspirare molto in alto, e se devo rimanere deluso e restare a terra non mi va. Io mi rialzo, continuo per il mio cammino. È stato un incidente di percorso, però andrò avanti sicuramente. Leo? No, volevo chiedere a Mangiacapre che cosa pensa della missione dei professionisti nel torneo olimpico di pugilato, perché so che prima di Rio è stata presa questa decisione molto controversa, insomma, lui che fa box e la fa bene, e gli faccio tanti tanti auguri di cuore per Tokyo, come la giudica questa scelta? Ma diciamo che secondo me è stata una decisione molto affrettata, perché per incidere il professionismo nel dilettantismo sono due sport completamente diversi. Come metti un centrometrista, lo metti a fare la maratona, è la stessa cosa, sono due sport completamente diversi. Però ti dico la verità, io ero a favore, perché comunque il pugilato professionistico è molto più visto rispetto a noi dilettanti in Italia, e ci poteva dare lustro se partecipava alle Olimpiadi un Pacquiao, un Mayweather, e ciò non è successo, per cui secondo me è stato una delusione, un fallimento per l'AIBA. Sì, perché poi i professionisti si sono tenuti ben larghi, quelli che fanno copertina. Sì, quelli che servivano a noi per l'immagine hanno tutti rifiutato, anche perché secondo me, la loro sigla gli ha messi davanti un petto con la loro decisione, e loro giustamente hanno deciso di rimanere con la loro sigla e lasciare perdere questa opportunità. Aveva ragione o no Clemente Russo a lamentarsi? Clemente Russo, lo ricordiamo, eliminato da Russo Tyshenko. Lui, anche Damiani, insomma, hanno raccontato di un verdetto completamente rivoltato, e hanno raccontato della box tornata ai vecchi vizi, quelli in cui, insomma, con i giudici non si capisce mai bene che cosa può succedere. Guarda, ti dico che hanno stravolto totalmente il metodo di giudizio nel pugilato, anche perché vogliono trasformare questo dilettantismo al professionismo, però l'hanno fatto troppo in fretta e non sanno nemmeno loro come cosa stanno facendo, e a livello politico noi siamo rimasti a zero e non contiamo più nulla, perciò il pugilato è stato sconfitto anche per quello. Perché un Clemente che era al top, e si è visto pure che non ha messo colpi belli, ma visibili anche a uno che non capisce niente di pugilato, e gli dà una sconfitta, e secondo me già abbiamo perso già prima di iniziare. Grazie Vincenzo. Grazie a voi. Grazie Vincenzo Mangiacapre. Leo, te la faccio sentire Irma Testa, al microfono nostro, sì, Dario, sì, Ricci. Sì, grazie. Sono tanto triste e dispiaciuta. E quando c'era Guido, il fatto che tutti i nostri amici fossero usciti comunque a testa alta ci dava carica, eccetera. Adesso che è uscito anche Guido, non so se posso dire la stessa cosa, non so se è una carica. E adesso inizio a sentire il peso, sinceramente, ed è una cosa che non mi piace. Abbiamo dei campioni che di testa ogni tanto sono un po' strani, un po' fragili, Leo. Irma è una ragazzina, ha 18 anni. Sente il peso di essere rimasta da sola. È rimasta l'unica a rappresentare la box italiana qui a Rio. Ha un incontro, dicevamo prima, molto difficile. Però insomma bisogna sempre mettere tutto in prospettiva. Prova a immaginare, avendo 18 anni, quante Olimpiadi ha davanti Irma, qualunque sia il verdetto di Rio. Poi mi veniva in mente una cosa a proposito di Rossetti, no? Che ha vinto l'oro nello ski. Allora Rossetti, sai, ha 21 anni, figlio d'arte, suo padre sul podio a Barcellona. Ma tu ti rendi conto che per l'età che ha, se fa come altri tiratori, Rossetti nel 2052 è ancora lì a tirare, è ancora lì. Ma anche lì, per questo sarebbe il caso di viverla forse in maniera più leggera. Io ho visto tanti piangere, sì, ma soprattutto quelli che sono all'ultima Olimpiade sanno che non torneranno. No, ma guarda, io capisco, li capisco tutti, da quelli celebri agli sconosciuti, italiani o stranieri che siano. L'Olimpiade è quel momento unico che c'è una volta ogni 4 anni, anche quando sei giovane e sai che ti potrai ripresentare. Comunque tiri un bilancio di 4 anni di sacrifici, e se le cose non sono andate come hai sperato ci rimani male, è normale questo. L'unica cosa, l'abbiamo detta anche per vicende drammatiche in questi giorni, è sempre bene ricordare a noi stessi per primi che nella vita non c'è solo l'Olimpiade, è una bella cosa per chi riesce a farla, per chi riesce a viverla, ma insomma non può diventare il valore o il disvalore assoluto della vita di un giovane. C'è Nicolò Campriani che sta per iniziare la sua finale, chissà, potrebbe essere la sua ultima gara in carriera, l'ha detto anche lui. Abbiamo un minuto, ti giro un messaggio di un amico che ti chiede perché le tuffatrici sono dotate di piccole salviette con le quali si asciugano o si bagnano. Marina, un'ascoltatrice. Mi affido a te. No, io non sono un esperto, sai, non ti voglio dire. Allora, certamente qual è la piscina di Rio lì al Lenk che ci sono andato. Questi poveretti, anche i maschi, è per pulirsi. Si debbono precipitare in un'acqua che definire acqua, uno, cioè, sembra una sostanza chimica tipo quella che usano nei film dei supereroi, i Vendicatori, eccetera, una roba misteriosissima. Quindi secondo me lo fanno anche per ragioni igieniche. Ma ad esempio un'altra cosa che io stesso non capisco, se poi hai fatto caso, si tuffano, mettiamo anche la piscina pulitissima, escono e poi fanno la doccia, passano tutte a prendere uno spruzzo di doccia, come quindi direbbero le mamme, si tolgono il cloro. Non lo so, però se vi interessa, pure la delusione che sto patendo per l'argento di Dong Dong, indago. E magari ci fai sapere. Ma domani andate in onda oppure già? Andiamo in onda più, regolarmente dalle 18 alle 20. Anche quindi tu sei assolutamente precettato, carissimo. Ti saluto, bene, che c'è il GR. Ciao Leo. Ciao, buon lavoro. Ciao. GR, torniamo subito dopo con la diretta con Dario Ricci da Rio della finale con il nostro Niccolò Campriani. Tra poco, nuove notizie. A più tardi. Pigia il coso rosso. Grazie. Tutti convocati. Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione. Al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24. Tutti convocati. In griglia di partenza ero molto indeciso, nervoso, e alla fine ha detto Andrea, cioè, believe in yourself, e quindi ho chiuso gli occhi, mi sono abbracciato con il mio ingegnere di pista Marco, che è stato veramente grandissimo questo weekend, e abbiamo fatto questa scelta, ci siamo assunti la responsabilità contro, credo, abbastanza persone, però abbiamo avuto ragione. Scoccia perché quando ti sai di avere la velocità e sei veloce fai il passo. Per una scelta sbagliata da parte nostra non siamo riusciti a vincere questa gara che era molto importante, però è normale, in questo momento lo stato d'animo prevale la delusione della vittoria mancata, però ci sono tantissime cose positive, non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo. Per me questo terzo posto è come una vittoria, no? Perché le Ducati stavano in un altro mondo, tanto nel test come venerdì, come sabato, come nelle qualifica. E noi piano piano ci abbiamo avvicinato. È stato un peccato, mi dispiace perché salire sul podio sarebbe stato bello, sarebbe stato importante, soprattutto in questa pista dove sapevamo che avremmo sofferto un po', soprattutto con le Ducati. E la gara è stata bella, sono stato piuttosto veloce e alla fine sono arrivato molto vicino alla vittoria. E molto vicino anche a Lorenzo, però non abbastanza perché non ce l'ho fatta mai attaccarlo. Riassunto sonoro del Gran Premio d'Austria, che è storico, a suo modo ha riportato la Ducati alla vittoria nella MotoGP, mancava da 6 anni, primo Andrea Iannone, secondo Andrea Dovizioso, poi Lorenzo, poi Valentino Rossi, quindi Marquez. 800 24 00 24, vi aspetto ancora per le vostre emozioni di questa domenica, o comunque le emozioni olimpiche, qual è la più intensa che avete vissuto? Saluto Roberto Ungaro, ciao Roberto. Ciao, un saluto a tutti. Aspetta, perché a proposito di emozioni andiamo subito a Rio de Janeiro dal nostro Dario Ricci, dove che è in corso la finale, del nostro Nicolò Campriani. Dario. Sì, eccoci Giovanni. Siamo alla terza serie di primi 5 tiri di finale, no? Della carabina da 50 metri di 3 posizioni. In questo momento i tiratori stanno tirando inginocchiati e Campriani è al secondo posto alle spalle del francese Arnaud, in questo momento 133,9, ecco, in questo momento è primo in questo momento, ma chiaramente i punteggi si susseguono tiro dopo tiro, grande regolarità da parte di Niccolò che ha tirato solamente un 9,9 in questi primi 14 tiri iniziali, adesso arriva un 10,6. Splendido Campriani nella sua regolarità ad alto livello. Direi che al momento siamo pienamente in corsa per il podio. È entrato con il piede giusto in questa gara dove, ricordiamo, deve difendere l'oro di Londra 2012. Stai lì Dario, che torniamo fra qualche minuto. Roberto, che cosa possiamo raccontare di questo Gran Premio di oggi che ha riportato la Ducati davanti a tutti? La si aspettava, lo si era detto ed è arrivata finalmente questa vittoria. 101 gare che aspettava Ducati questo risultato, e agli addetti al settore lo sapevano, la Ducati ha sempre avuto un grande potenziale, quest'anno è stata sfortunata, errore da parte anche dei piloti, doveva arrivare prima, poteva arrivare prima questo risultato, ma è arrivato qui su questa pista. Lo si era capito a luglio quando nei test volava la moto e dava dei stacchi incredibili agli altri. C'era l'incognita della nuova gomma, ha azzeccato la scelta perché ha usato una più morbida Iannone, ma comunque ha guidato veramente bene, anche se avesse avuto una gomma uguale agli altri avrebbe secondo me vinto, e quindi questo è importante perché per Ducati è un'iniezione di energia, di fiducia in quell'uomo che si chiama Gigi Dall'Igna, che ha riscritto questa moto e l'ha portata di nuovo alla vittoria. Bello vedere Casey Stoner presente nel box. E l'altra notizia è Lorenzo che è risorto finalmente, il campionato si riapre un po', perché ha 43 punti adesso da Marquez, Lorenzo 50, Valentino scusa 57, ne ha guadagnati solo 2 di punti su Marquez. Marquez che ha lussato una spalla cadendo nelle prove per evitare il compagno di squadra Pedrosa, sì. se l'ha rimessa a posto, comunque non era in una splendida forma. No, ma infatti credo che i grandi sconfitti di questa domenica, sì, per paradosso, siano proprio Lorenzo e Valentino Rossi, che in una domenica in cui Marquez fa quinto ma è fuori dalla gara dall'inizio, lo si capisce un po' per la moto, un po' per le condizioni, sì, fisiche, di fatto gli hanno consentito di limitare i danni. Sconfitta anche la Honda, lasciamolo dire, perché su una pista del genere le ha prese, lo si vedeva, non era all'altezza della Yamaha e non era una pista favorevole a Yamaha. Valentino ci ha un po' illuso, perché comunque ha girato bene in qualifica e quindi era lì in mezzo fra i due delle rosse, ci ha un po' illuso, poi in gara invece non ce l'ha fatta. Lorenzo la sorpresa. Io spero, non voglio credere che sia un fuoco di paglia questo delle Ducati, è vero che Brno è un'altra pista, altro asfalto, però ci sono tutti gli ingredienti perché da qui alla fine della stagione, ancora 8 gare, possa far bene, possono arrivare altre vittorie. Il campionato ormai è perso per la Ducati, è difficile, però è importante. Grande fiducia per Iannone, perché ha fatto la pole, il miglior tempo in gara e la vittoria, quindi anche lui lo si sapeva che aveva un grande potenziale, non l'aveva mai espresso, non l'aveva mai tradotto, finalmente questa gioia è arrivata. Sì, ha ragione quando dice peccato che ci si separi a fine anno. Sì, però ne ha fatte tante quest'anno, se l'è un po' cercata questa separazione, perché è un peccato, perché adesso c'era un bel feeling, la moto la conosce, erano arrivati a un bel livello, quindi sarebbe stato interessante andare avanti. Anche perché lui c'ha il guizzo, fa la differenza, cioè, rispetto a un Dovizioso che è un pilota calcolatore, sempre lì, però non ti aspetti il colpo di così nel cilindro, quello che tira fuori. Iannone invece è quel pilota lì, se adesso poi inizia a credere un po' più in se stesso e fare meno errori, pare che stia un po' maturando, agonisticamente parlando, potrebbe diventare un pilota interessante anche per la stagione futura 2017. Vedremo i Suzuki, che comunque Suzuki è un'ottima moto, competitiva, e quindi vedremo il suo valore. Sì, anche se dovrà quasi ripartire da zero per svilupparla, sì. C'è anche un po' il rischio, io non lo so se esiste, c'è anche un po' il rischio che la Ducati debba anch'essa, non dico ricominciare da zero, ma comunque con un pilota che non la conosce, e la Ducati è molto poco semplice per chi ci sale per la prima volta. È esattamente così, hai ragione, è una moto a sé, è una storia a sé per il tipo di motore. Ma non hanno avuto un po' fretta quest'anno a sigillare tutto per l'anno prossimo? Però la situazione, ti ricordi le gare quando... Sì, calamity di Iannone, sì. Quindi alla fine, insomma, hanno preso il pilota comunque che sulla carta era il pilota numero uno, che porta ancora il numero uno sulla carena, anche se non ce l'ha, perché Jorge Lorenzo, non dimentichiamoci che è il campione del mondo in carica, e soprattutto prima delle ultime 3 gare il suo potenziale era davvero notevole, poi è andato in crisi, però rimane un gran pilota. Non sarà facile adattarsi alla Ducati, lì hai ragione, perché è tutto un altro stile, però oggi quando le vedeva da dietro così lontane, una moto del genere, comunque, cioè, la cavalleria c'è, ora curva, perché questa è la grande differenza. Gigi Dall'Igna l'ha fatta curvare quella moto, mentre invece fino all'anno scorso curvava poco, e questo era il grande problema della Ducati. Lui pian piano, con costanza, credendoci, l'ha risolto, e i risultati si sono visti. Ripeto, poteva arrivare anche prima questo risultato, è solo la sfortuna non l'ha fatto arrivare in questa stagione 2016. Sì, doveva, forse, più che poteva, doveva arrivare prima. Grazie Roberto. Diciamo, a te un saluto a tutti. Grazie Roberto Ungaro per parlare della domenica di gloria delle Ducati. Torniamo a Rio de Janeiro dal nostro Dario Ricci per la finale della carabina 50 metri, 3 posizioni, con il nostro Nicolò Campriani. Dario. Eccoci Giovanni, primo momento di pausa in questa finale, ci sarà un altro dopo questi ulteriori 15 tiri che la Ducati stanno preparando a tirare appunto dalla posizione sdraiata. Di fatto, dopo i primi 15 tiri invece dalla posizione da inginocchiati, Niccolò Campriani è primo con 155.1 davanti a Russo Vlasov, 154.2, quindi 0.9 di vantaggio per Campriani. Il francese Reynaud è terzo a 153.8 davanti all'altro russo Kamensky, col punteggio di 153.6. splendida la serie di Campriani, che pensate nei 15 tiri da inginocchiato ha fatto come peggior tiro il secondo a 9.9, il migliore, il decimo Piva 10.7 e poi ha chiuso con una splendida sequenza 10.5, 10.4, 10.4 e poi due volte 10.6, quindi straordinaria regolarità di Nicolò che sembra davvero in palla. Come abbiamo detto, potrebbe essere questa, chissà, forse la sua ultima gara olimpica, come ci ha fatto intuire nei giorni scorsi, ma se sarà così, e ancora non è certo, sicuramente ha tutta l'intenzione, e lo sta dimostrando, di chiudere alla grande. Dario, c'è il traffico, torniamo subito dopo anche da te, e poi parliamo anche dell'avvicinamento al campionato di calcio. Ieri abbiamo visto tante big in campo e cerchiamo un po' di fare il borsino. Traffico. Però lasciami dire che Belen ha portato un po' di fortuna stavolta. Belen, tutti i ragazzi che sono venuti hanno portato sicuramente molta fortuna. Questo è un grande problema però. Perché sono tanti. Perché sono tanti. E poi come si dice, quando una persona ha un gran culo alla fine, no? Tutti convocati. Convocati. Can you keep the bird up on water? Chiude il 31 agosto. Fino a questo momento la società ha fatto un gran lavoro. Il profilo è innanzitutto che siano due giocatori bravi, che abbiano tecnica e siano di spessore per giocare nella Juventus. No, ma allora i due giocatori chi sono? Cioè nel senso due centrocampisti? Ha detto due lei? Non lo so, un centrocampista può darsi. Ne abbiamo già tanti bravi e poi vedremo cosa ci dirà, cosa ci offrirà il mercato. Candreva che se la porta sul destro, cerca lo scavetto. Candreva, super gol, 2-0 Inter. Mertens che da dentro per Milik, e Milik va a segnare il gol del 3-1 sfruttando anche l'uscita così di Rune Jarstein. E lì ci abbiamo un po' giocato, Abbiamo detto la Juventus ha già vinto lo scudetto. Diteci quale sarà la griglia alle spalle della Juve, oppure dateci una ragione per credere che non finirà così. Beh, ieri qualche dubbio l'hanno seminato il Napoli, l'Inter, ma anche la stessa Juventus. Saluto Giancarlo Camolese. Ciao Giancarlo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ti hanno fatto venire qualche dubbio? 800 24 00 24, se li avete voi, noi siamo sempre qui disponibili ad ascoltarvi. Ma guarda, questo è calcio d'estate, poi le squadre, gli allenatori cercano le condizioni attraverso modi differenti, quindi si sta che una squadra sia più avanti di un'altra. Allegri ha ribadito più volte, ed è questo il suo problema, che lui ha dei giocatori che non hanno la stessa condizione, non è omogeneo il suo gruppo, quindi ci sta qualche battuta così a vuoto, ma io credo che alla fine, per quando ci saranno le partite importanti, tutti saranno a posto. Poi la Juventus ha dimostrato lo scorso anno che anche regalando molte partite agli avversari, alla fine è arrivata alla grande fino al fondo. Quindi non è il caso di allarmarsi per i tifosi juventini se la Juve continua a incassare gol, se Higuaín è un po' sovrappeso, se manca ancora un centrocampista o due. Io sei d'accordo, mancano due centrocampisti, quello che ha detto Allegri? Beh, se lui richiede vuol dire che evidentemente conosce molto bene la sua rosa e sa che manca qualcosa. D'altronde sostituire Pogba non è facile, in più c'è Marchisio che non si sa quando riprenderà, quindi è chiaro che lui sa che ha anche tanti impegni e quindi chiede alla società, oppure sono d'accordo con la società che ancora qualcosa bisogna fare. Dicevo, io spero che la Juventus abbia qualche problema in più rispetto allo scorso anno, proprio per la bellezza del nostro campionato e perché credo che dietro ci siano delle squadre come il Napoli, la Roma, che si sono attrezzate per far bene, che quindi possono rendere il nostro campionato avvincente. Sì, credo che tu ieri abbia commentato il Napoli, se non sbaglio. Sì, Napoli per Mediaset. Personale opinione, ma che vado ribadendo da qualche settimana, non necessariamente Napoli si è indebolito perdendo Higuain. Ma io sono d'accordo, l'ho anche detto, nel senso che in questo momento credo che all'interno del gruppo del Napoli, e penso che anche Sarri avrà toccato questo tasto, c'è la voglia da parte di tutti di dimostrare che la squadra, il Napoli dello scorso anno, non era solo Higuain, perché poi secondo me è così, il Napoli ha organizzazione di gioco, ha giocatori che, di qualità, che hanno dato un rendimento alto e che hanno aiutato Higuain a fare tutti i gol che ha fatto. In più mi sembra che quest'anno la rosa sia un po' più profonda, forse lo scorso anno giocavano più o meno sempre gli stessi e quindi alla fine possono essere arrivati, diciamo, a perdere qualche colpo alla lunga. Mi sembra che invece quest'anno la rosa si sia completata e quindi Napoli giustamente si giocherà le sue carte. Sì, e poi lo ripeto, attenzione, i 36 gol di Higuain dell'anno scorso non hanno aumentato il totale dei gol del Napoli, hanno cannibalizzato i gol di Callejon, di Gabbiadini, di Mertens. Andatevi a vedere le cifre e vi accorgerete che questi giocatori, soprattutto Callejon e Mertens, hanno fatto i numeri minori dei 3 anni di convivenza insieme ad Higuain. Quindi se Milik è un giocatore da 15 gol, io credo che il Napoli le potenzialità le abbia. Giancarlo, ti chiedo un minuto di pazienza, andiamo a Rio de Janeiro dal nostro Dario Ricci per farci raccontare la finale di Nicolò Campriani. Dario. Due tiri alla fine della seconda serie dalla posizione Froni, Campriani sempre in testa con 238.3 punti, ma chiaramente i punteggi si susseguono. Il quarto tiro di Campriani è un 10.1, molto regolare Nicolò anche in questa serie finora, 10.6, 10.2, 10.4 e 10.1, proprio questa regolarità, come sottolineavamo prima, Giovanni, sta facendo la differenza rispetto ai rivali che sono soprattutto i russi Kamensky e Vlasov, mentre sta risalendo in classifica forte il tedesco Link, autore di una splendida sequenza in questa sezione. Arriva un 10.5, l'ultimo tiro di Campriani nella seconda serie delle tre previste dalla posizione Zraiati. Campriani in testa a quota 258.9 e dietro di lui i due russi Kamensky e Vlasov, staccati rispettivamente di 0.8 e 0.6. Sì, mi pare che si sia soprattutto scavando in questo momento un margine di sicurezza rispetto alla quarta posizione al podio. Dario, torniamo tra pochi istanti da te. Intanto è cominciata anche la semifinale del torneo di spada a squadre. Italia avanti 8-4 con l'Ucraina. In questo momento in pedana ci sono Paolo Pizzo e l'ucraino Nishikin. Fichera prima ha vinto il suo assalto 5-2 con Erei e in questo momento Pizzo sta facendo la sua parte. Italia avanti 8-4. Torniamo al calcio. Giancarlo Camolese, stai seguendo le Olimpiadi, sì? Sì, le sto seguendo. È un'occasione unica per vedere tantissimi atleti di altissimo livello in sport che magari durante l'anno si vedono meno, quindi è veramente una bellissima vetrina. Qual è stata la tua emozione olimpica più forte fin qui? E l'Italia ce ne ha regalate tante, eh? Sì, ce ne ha regalate tante, quindi diciamo tutti bravissimi così, però il Basile, che tra l'altro è della mia città, di Torino, insomma, mi ha veramente impressionato per la determinazione, per la grinta che trasmetteva, per quello che insomma riusciva a far passare attraverso lo schermo, al di là del combattimento, che poi per carità gesti tecnici è anche bravissimo, però aveva veramente una determinazione incredibile questo ragazzo, che credo che sia stato quello che gli ha dato qualcosa in più rispetto agli avversari. Ti giro un paio di messaggi che sono arrivati, 349-238-6666. Il primo dice: sarebbe una noia mortale se vincesse anche il prossimo anno la Juve. Ma io invece credo che quest'anno ci sia anche un elemento in più, perché la dimensione della Juve è quella europea. Beh, io lo dicevo prima, cioè io mi auguro un campionato combattuto, poi alla fine, come si dice sempre, che vinca il migliore, però un campionato combattuto, non un campionato che a gennaio è già finito con una squadra che ha 15 punti sulle altre, insomma. Noi anche se non è il paradosso abituati, che il campionato l'anno scorso è stato quello con il record dei capoliste. Sì, sì, è vero. No, ma poi io credo che noi adesso non stiamo più pensando al Milan, all'Inter, che io sono convinto che faranno meglio rispetto allo scorso anno. L'Inter è tutta da scoprire, così come il Milan, che ha cambiato un allenatore e l'ha preso, diciamo, dall'inizio, quindi Montella ha potuto lavorare dall'inizio su un gruppo che lo scorso anno ha fatto oggettivamente meno di quanto si poteva pensare. Quindi secondo me ci sono molti temi e io mi auguro che sia un bel campionato avvincente. Poi c'è chi dice, attenzione alla variabile Allegri, ricordate lo sfogo l'anno scorso dopo Sassuolo, lo sfogo dei senatori, basta esperimenti, noi sappiamo come giocare. Io credo sia un po' ingeneroso pensare che l'anno scorso la Juve si sia rimessa in piedi perché hanno deciso i giocatori come fare. No, io credo che invece lo scorso anno Allegri sia stato molto, molto bravo, perché ha saputo gestire i risultati negativi, perché come la Juve ti dà tanta visibilità quando vinci, così è lo stesso quando perdi, quindi lui è stato bravo a tenere il gruppo compatto, a variare la sua squadra, il sistema di gioco quando c'era la necessità, e poi grazie, diciamo, al suo gruppo di giocatori, al suo zoccolo duro, e mi riferisco alla difesa, Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, insomma, questi giocatori sono riusciti a trascinare gli altri, poi la crescita di Dybala, poi insomma ci sono sempre tante componenti poi quando le cose vanno bene, però io credo che lì l'allenatore sia stato bravo, assieme alla società ovviamente, perché se non sei sostenuto dalla società è un problema. Sì, io continuo a non capire perché tanti tifosi della Juventus non considerino Allegri per quello che è, cioè un grande allenatore. Resta un mistero. Ma questo non lo so, forse perché non ha proprio un pedigree juventino, diciamo, no? Non è cresciuto e non ha giocato, non è partito dalla Juventus, non lo so, molte sono cose strane, però io credo che lui sia stato bravo quando è arrivato, perché anche se secondo me non era una situazione particolarmente difficile, sì, è vero che lui sostituiva Conte, però è entrato in un gruppo che è stato, tra virgolette, lasciato dall'allenatore. Quindi il nuovo allenatore ha fatto leva anche su questo, credo, quindi anche nei giocatori c'era la voglia di dimostrare che loro erano bravi, quindi questo non era una... Invece secondo me lo scorso anno è stato bravo, proprio perché ha saputo invertire una tendenza che sembrava negativa, perché veramente la Juventus nella parte destra della classifica io non l'avevo mai vista, sì. Quindi voglio dire, in qualche non in epoche recenti, quindi insomma erano veramente partiti male, molto male. Che sensazione ti dà l'Inter? Poi ti saluto. È proprio questo che dico, l'Inter secondo me ha buoni giocatori, adesso c'è un allenatore nuovo che porterà le sue idee, che porterà la sua mentalità, poi credo che Candreva possa dare veramente una mano, poi mi sembra che i giocatori ne ha davanti e c'è anche giocatori di qualità. E poi il discorso è che questi giocatori devono diventare squadra, e è forse quello che è un po' mancato all'Inter, tante individualità, qualche volta è mancata la squadra nel suo complesso, quindi magari De Boer ha la ricetta giusta. Sì, non ha forse il tempo per svilupparla pieno, o comunque insomma qualcosa pagherà, però certamente ieri qualcosa abbiamo visto, qualche primo segnale di che cosa è in testa De Boer, e credo anche di un cambio di atteggiamento da parte dell'Inter. Grazie Giancarlo. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Giancarlo Camolese. Semifinale torneo spada squadre, Rio de Janeiro, Italia 13, Ucraina 7. Anche Pizzo ha vinto il suo assalto 5-3 contro Nishikin, e ora c'è Enrico Garozzo in pedana contro Kariuchenko. 13-7 per l'Italia. Invece andiamo alla finale di Nicolò Campriani con il nostro Dario Ricci da Rio. Dario. Eccoci qua, ritrovati Giovanni, mancano 5 minuti e 10 secondi all'inizio delle due serie da 5 tiri ciascuna in piedi. Terza e decisiva fase di questa finale della carabina da 50 metri in tre posizioni. Nicolò Campriani è in testa con 310 punti, ma è stato raggiunto dal russo Kamensky. Appena sufficiente, direi, l'ultima serie di Campriani dalla posizione pronata, 10.1, 10.6, 10, 10.4 e 10, comunque bei punteggi, ma Kamensky è riuscito a recuperare il 0.6 decimi che aveva di distacco. Al terzo posto l'altro russo Vlasov, 309.6, quindi meno 0.4. Più staccato in quarta posizione il francese Reinhard, 308.8. Adesso quelli che sentite in sottofondo sono i tiri di prova, perché in questi due intervalli gli atleti hanno a disposizione questi minuti per ripreparare le loro armi e fare un po' l'occhio alla nuova posizione. Poi tra 4 minuti e 2 secondi inizierà la terza e decisiva fase, lo ricordo, con prima le due serie di 5 tiri in piedi e poi si proseguirà tiro dopo tiro in quell'eliminazione diretta che davvero fa venire brividi dall'emozione. Fase decisiva che racconteremo da Rio de Janeiro con il nostro Dario Ricci tra un paio di minuti. Torniamo. You are amazing. Thank you very much. Tutti convocati. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Tutti convocati. Oh, they're away, and Gatlin got away brilliantly, and he's ahead of the field at the moment, and Bolt going very near. Comes Usain Bolt! Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver, 9.64! Oh, he's retained his title in the most emphatic way! Brilliant, brilliant, brilliant! Usain Bolt of Jamaica is the fastest man on the planet, 9.63! La magia di una finale olimpica sui 100 metri. Abbiamo sentito quella di Londra 2012 con la vittoria di Usain Bolt. Questa notte ore 3.25. Italiana la finale da Rio de Janeiro, dove vado per salutare Andrea Bongiovanni, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Ciao, bentrovati, buongiorno. La magia di una sfida che io non dico regga quasi da sola il cartellone dell'atletica leggera della seconda settimana, però è inutile insomma raccontarcela diversamente, cioè questo è l'evento più atteso di tutta l'Olimpiade. Sì, l'evento con la L maiuscola, che forse va anche al di là del programma dell'atletica, forse insieme a qualche altra gara, ma non tante, è l'evento dell'Olimpiade, dell'intera Olimpiade, quello che si attende per 4 anni, quello intorno al quale si raccontano le storie più incredibili, più interessanti, più affascinanti, soprattutto da un paio di quadrienni a questa parte, da quando sulla scena è comparso quel gigante, quel mostro che è Usain Bolt, che stasera va per un'impresa addirittura senza precedenti, un'impresa storica, ovvero il terzo titolo consecutivo. Non sarà così semplice, perché da un lato gli avversari, a partire da Justin Gatlin, sono in grande condizione, lo hanno confermato ieri nel corso del primo turno, e dall'altro Bolt stesso non è più quello che si era ammirato a Londra e né tantomeno a Pechino. Per cui insomma le incognite circa questa finale sono tante, il pronostico è decisamente aperto e forse nemmeno da escludere altri atleti che possano a sorpresa inserirsi in questa sfida tra i due, che ovviamente comunque restano i due atleti da seguire con più interesse. Sì, ho letto con interesse questa mattina il pezzo a tua firma sulla Gazzetta dello Sport, un po' in controtendenza rispetto a quello che è il sentimento comune, e cioè attenzione, non è necessariamente detto che Bolt sia favorito dentro questa finale, soprattutto nel confronto con Gatlin, attenzione perché alcuni suoi difetti a partire dalla partenza, che storicamente è un punto debole di Usain Bolt, in realtà potrebbero essergli perdonati meno rispetto in passato, perché è semplicemente meno esplosivo. Diciamo che in qualche modo ho voluto mettere un po' le mani avanti, nel senso che pensare a Bolt non favorito è probabilmente è da matti, perché Bolt negli anni ha dimostrato di essere praticamente imbattibile. Tutto questo è 4 anni che non scende nei 109,80, che è un tempo che stasera probabilmente andrà fatto per arrivare all'oro, e soprattutto appunto non è più quello brillante che si è ammirato negli anni passati. Ha questo problema della partenza che nel tempo diventa via via più grosso per lui, più grave per lui, e Gatlin invece, nonostante i 34 anni, sembra sempre più in condizione. Lo ha dimostrato nel corso della stagione, centrando la miglior prestazione mondiale dell'anno con quel 9.80 corso ai trials di Gin, e lo ha riconfermato ieri, dove senza assolutamente spingere ha corso in un facilissimo 10.01, che poteva essere ben altra cosa se solo avesse provato a tirare fino in fondo. Quindi sì, probabilmente Bolt è il suo favorito perché alle spalle ha una storia che lo dice ed è un campione che prima mai si è visto, però appunto non essendo più il Bolt a cui siamo abituati o che comunque vinceva a mani basse, bisogna stare attenti, il pronostico secondo me è molto aperto. La vittoria di Gatlin sarebbe un paradosso, poi dentro queste Olimpiadi della quasi tolleranza zero, io dico del casino, intorno alla questione antidoping. Sì, purtroppo sì, sappiamo benissimo che il suo passato è macchiato da addirittura due squalifiche per doping, la prima nel 2011, la seconda nel 2006, che era addirittura una squalifica a vita, e poi in appello è diventata di 4 anni. Per cui è chiaro che il personaggio da questo punto di vista è molto molto ingombrante e tantissimi non lo vorrebbero nemmeno vedere sulla scena a 5 cerchi, e invece lui è qui e dice che ha pagato le sue colpe, ha pagato il prezzo di quello che ha commesso, anche se poi lui in verità sostiene di non essere mai stato volontariamente, come dire, di non essersi mai volontariamente dopato, e quindi è chiaro che un'eventuale sua vittoria, insomma, metterebbe una nuvola grigia su tutta l'atletica, che già in questo momento attraversa da problemi grossissimi, come ricordavi, a partire da quello della Russia, la cui assenza insomma inevitabilmente si fa sentire. E poi nelle ultime ore non ci siamo fatti mancare nulla, nemmeno la vicenda della lunghista, la Klishina, prima ammessa e poi estromessa, vedremo cosa deciderà il TAS. Intanto 23-12 per l'Italia contro l'Ucraina, semifinale spada a squadre, in pedana ci sono Marco Fichera e l'ucraino Kariuchenko, Italia che sta dominando questo assalto. Andrea, ti chiedo un minuto di pazienza perché andiamo a seguire invece la finale di Nicolò Campriani con il nostro Dario Ricci. Dario. Allora, siamo al quinto tiro della prima sessione, in piedi 10-2 per Nicolò Campriani, 10-1 per Kamensky, che però è passato in vantaggio, 350.8 per il russo contro i 350.2 di Campriani. È crollato Vlasov che ha fallito un tiro con 5.7 completamente centrato. Adesso seguiamo ancora 10.2, arriva appunto per Campriani, seguiamo il quinto tiro di Kamensky, ci sono 50 secondi, lo ricordiamo, per completare la sessione. È un 10.5 Kamensky, quindi in testa con 361.3, Campriani secondo con 360.2, il tedesco Link, che vi ricordate avevamo dato il rimonta, ebbene in questo momento è sul podio a 359.6, più staccato Rainois a 358.6. fra pochi istanti la seconda sessione di 5 tiri sempre in piedi. E piano piano va definendosi anche la classifica. Torniamo da te tra poco, Dario. Invece, tornando ad Andrea Bongiovanni, sempre Rio de Janeiro, inviato della Gazzetta sull'atletica dello sport. Andrea, questa notte abbiamo visto Mo Farah, altro personaggio discusso e chiacchierato a proposito di doping, lo è stato anche dopo i successi di Londra 2012. Protagonista questa notte di una vittoria con caduta, con partenza d'handicap, insomma, comunque un bel personaggio. Assolutamente, quello che l'impresa che ha compiuto stanotte addirittura assume i toni della leggenda, perché va a duplicare l'oro di Londra 2012, dove vinse anche quello dei 5.000, gara sulla quale si riproporrà sabato, e qualora dovesse vincere anche quella entrerebbe veramente nella storia, perché c'è soltanto un uomo in chiave olimpica che è riuscito due volte a vincere 5.000 e 10.000, ed è Lasse Viren, il finlandese Lasse Viren, grandissimo finlandese, che ci riuscì a Monaco 72 e a Monza 76. È vero, anche lui è un po' chiacchierato, ma più che lui è chiacchierato il suo allenatore, Salazar, questo statunitense maestro dell'Oregon, sulle cui pratiche insomma molti avanzano dubbi. Farà fino a prova contraria, non è mai risultato positivo ad alcun controllo antidoping, lui dice assolutamente di essere pulito, e al di là di questo insomma quello che fa vedere in pista è sensazionale, anche il modo in cui ha condotto la gara ieri, di caduta, merita gli applausi di tutti, perché tatticamente è assolutamente imbattibile, e spesso gli avversari che dovrebbero provare a impostare una gara sul ritmo, a sfiancarlo in modo ripetuto e continuo, nemmeno ci riescono, tale, come dire, anche la sua capacità di gestire le situazioni in ogni modo, e quindi di condizionare anche le gare degli altri, perché tanto si sa che con lui in pista sostanzialmente si lotta per il secondo posto. Sì, superiorità assoluta. Poi questa notte vedremo anche Libagna-Grenone, le semifinali. Penso che possiamo confermare che se esiste, ammesso che esista, una possibilità di medaglia italiana, è la Grenot, e da lì non ci muoviamo. Onestamente mi sembra un po' ottimistica come previsione. Io credo che la vera finale di Libania sia oggi. Entrare tra le otto sarebbe un'impresa enorme. Non c'è riuscita né a Pechino né a Londra per pochissimo, per 20 centesimi in entrambe le occasioni. Ha una batteria severissima che veramente vale una finale. Dovesse riuscire a superarla magari con i tempi di ripescaggio ed entrare tra le prime otto sarebbe un risultato enorme, poi da lì pensare alla medaglia insomma sarebbe forse eccessivo, perché la concorrenza dalle Sassensi alla Bamense Miller è clamorosa, e al di là del fatto che lei ha vinto due volte il titolo europeo dei 400, insomma immaginarla sul podio è forse eccessivo, però ripeto, entrarsi nelle prime otto sarebbe un risultato veramente enorme. Sì, noi dobbiamo accontentarci almeno oggi del 13° posto della Straneo nella maratona, con miglior prestazione stagionale, cosa che indica comunque che questa Olimpiade è stata preparata in maniera adeguata. Sì, Valeria è stata brava perché arrivava da un anno veramente difficile, pieno di problemi fisici, è arrivata qua in extremis. In realtà dire la sua migliore prestazione stagionale lascia un po' il tempo che trova, nel senso che lei in tutto l'anno ha corso una sola maratona a giugno, giusto per fare il tempo per riuscire a qualificarsi per l'Olimpiade, correndo praticamente, passeggiando per arrivare giusto a fare il tempo minimo per essere qua. Oggi ha dimostrato, nonostante la poca preparazione e l'età, perché ha 40 anni, insomma non va dimenticato, di essere veramente una campionessa, perché ha costruito questa maratona in poco più di due mesi, e già subito dopo il traguardo, nonostante la fatica, nonostante il caldo di oggi, ha detto: adesso comincio a pensare alla prossima maratona. E questo è un bel segno per lei e per l'atletica italiana, che ovviamente ha bisogno di personaggi e ha bisogno di risultati. Grazie Andrea. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie ad Andrea Bongiovanni, inviato dalla Gazzetta dello Sport per l'atletica a Rio de Janeiro. Atletica che questa notte, ore 3:25 italiane, ma le semifinali sono alle 2, quindi lo spettacolo è doppio, celebra la finale dei 100 maschili. Italia avanti 29-14 nella semifinale a squadre della spada, 30-14 in questo momento contro l'Ucraina. In pedana ci sono Paolo Pizzo e l'ucraino Kariuchenko, azzurri che stanno vincendo tutti gli assalti fin qui contro gli ucraini. L'altra semifinale è tra Francia ed Ungheria. Torniamo invece a Rio de Janeiro dal nostro Dario Ricci per la finale di Nicolò Campriani. Siamo al momento decisivo, Giovanni, mancano 6 tiri alla fine e da questo momento in poi ogni tiro porterà all'eliminazione del peggiore in classifica. Kamensky è in testa con 411.3 davanti al nostro Nicolò Campriani, 411, poi il francese Reynaud 407.2 e il tedesco Brodmeier 407. Sembrano essere questi uomini pronti a giocarsi il podio nell'ultima serie in piedi, andato sulle montagne russe. Nicolò 10.6, poi 9.7, 10.8 splendido, seguito da un pessimo 9.5 e poi da un più normale 10.2. è riuscito comunque a ridurre il gap da Kamensky, adesso appena 3 decimi di punto dal russo più consistente, decisamente più consistente il vantaggio su Reynaud, 3 punti e 8 decimi, ma qua basta pochissimo per mandare in fumo tutta la gara. È capitata al tedesco Link, che prima era rientrato nelle primissime posizioni e poi con un 7.8 si è nuovamente distanziato. Seguiamo questi di ieri: Reynaud 10.1, Campriani 10.3, manca ancora Kamensky, vediamo 9.2 di Kamensky, e Nicolò Campriani riallunga in testa, 421.3 il contro 420.5. Campriani ora in testa con 8 decimi di punto, Reynaud staccato a 3.2, eliminato col peggior punteggio il cinese Zhu, rimangono in 5. Abbiamo il traffico, Dario. Abbiamo il traffico, okay, andiamo in traffico, così poi raccontiamo le fasi finali di questa finale che ci sta regalando fin qui tante emozioni con Nicolò Campriani, primo. Quando siamo davvero arrivati al momento decisivo. Traffico. tutti convocati. Tutti convocati. Subito a Rio de Janeiro, finale carabina 50 metri da tre posizioni con il nostro Nicolò Campriani che è ancora primo. Dario? No, purtroppo no, 8.7 in questo tiro, per fortuna che Messi non ha fatto troppo meglio, 9.7 ma è tornato in testa, 430.2 per il russo, appena due decimi di punto di vantaggio su Campriani, che veramente ha compiuto un errore grave, ma c'è tutto ancora il tempo per recuperare. Al terzo posto Reynaud si fa sotto ad 1.8 di distacco dal leader, 428.2. intanto è stato eliminato ora il tedesco Link, rimangono in corsa Camessi, Campriani, Reynaud, il francese Reynaud e Brudmeier al quarto posto con 426.1. Giovanni, davvero ogni tiro un'eliminazione, ma ogni tiro chiaramente decisivo anche per definire quello che poi sarà, sarà la finale, che pure con, in cui gli ultimi due tiratori sopravvissuti alle eliminazioni manterranno il totale dei punteggi. Allora, quattro tiri alla fine, seguiamo questo. Stanno prendendo chiaramente la mira i quattro tiratori, Camessi, Campriani, Reynaud. Campriani 10.5, Brudmeier 9.5, Reynaud 10, manca ancora Camessi, che d'abitudine prende qualche secondo in più. 10.4, recuperiamo un decimo, Camessi in testa 440.6, Campriani 440.5, un decimo, dal primo posto ed è eliminato Brudmeier. Quindi c'è la certezza del podio. Campriani è almeno pronto. Niccolò Campriani è almeno bronzo, aveva promesso di chiudere alla grande questa Olimpiade, chissà, forse anche la carriera, lo farà comunque su un podio olimpico dopo lo splendido oro di qualche giorno fa. Intanto 35-21 dipende l'oro olimpico e manca un decimo di punto da recuperare a Camessi. Intanto 35-21 per l'Italia sull'Ucraina. Intanto 35-21 dell'Italia sull'Ucraina quando è iniziato il penultimo assalto in pedana, gara a squadre della spada. In pedana ci sono Enrico Garozzo e l'ucraino Anatoli Erei. 36-21 in questo momento per l'Italia. Torniamo a Rio da Dario Ricci. Dario? Camessi 440.6, Campriani 440.5, un decimo di distacco, più dietro Reynaud 438.2, 2.3. Ecco il comando, da questo momento possono sparare i tre tiratori rimasti in gara. Niccolò Campriani è almeno pronto, ma a questo punto c'è la voglia davvero di fare qualcosa di più, di fare qualcosa di straordinario. Ecco, spara Reynaud, 10.2. Vediamo, mancano Campriani e Camessi. 9.1, Niccolò. Peccato, Niccolò. 9.6 Camessi, anche Camessi non incanta. Reynaud è il terzo a 448.4. Niccolò Campriani almeno argento e a 6 decimi di distacco da Camessi. Camessi 450.2, Campriani 449.6, 6 decimi di distacco, è almeno argento, ma quest'ultimo tiro davvero è da seguire istante dopo istante, perché i due sono stanchissimi, questa gara è una maratona di nervi e di fatica fisica, perché si cambia posizione, si cambia l'impostazione di tiro. Vediamo se reggeranno fisico e nervi. È almeno argento Niccolò Campriani e quindi sarà comunque grande festa. Ci sono 6 decimi da recuperare, Giovanni, in quest'ultimo tiro. Campriani è già in posizione, pronto al tiro, muove leggermente la testa verso destra. Camessi invece tiene carabina e sguardo ben distanti, completamente distolti dal bersaglio. Ancora Niccolò Campriani che guarda verso il tavolo della giuria, adesso entrambi caricano la loro carabina, anche Camessi ora in posizione, lo start del giudice e il pubblico che applaude, scandisce questi istanti interminabili. Sentiamo. Campriani contro Kameski, sei decimi di punto da recuperare per l'italiano. 9.2 di Campriani, 9.2 di Campriani. Deve sparare da un'altra parte. A meno che Kameski, 8.3, 8.3, 8.3. È oro! Campriani è oro! Campriani è oro! 458.8, 3 decimi di vantaggio su Kameski, Campriani è oro! Campriani è d'oro fino all'ultimo tiro, questa gara non finisce mai ed è stato Kameski a regalare l'oro a Nicolò Campriani. Campriani è d'oro, è leggenda, Campriani nella leggenda. Ha bissato la vittoria di Londra 2012, ha bissato l'oro già conquistato in questa Olimpiade Rio de Janeiro. Incredibile cosa faccia la testa in questo sport. Kameski che ha buttato tutto via, gli bastava fare un tiro normale, perché Campriani a sua volta aveva sbagliato e invece ha buttato tutto via. Grazie a Dario Ricci per le emozioni raccontate in questo pomeriggio, che ci ha regalato la settima medaglia d'oro della nostra spedizione a Rio de Janeiro. Saluto Pietro Nicolodi che ha pazientemente atteso seguendo con noi la finale di Nicolò Campriani. Ciao Pietro. Ciao, buona serata a tutti, sono ancora estasiato dal finale, sto guardando anche la scherma e sono, sto impazzendo come al solito davanti a, sì, alla cosa più bella del mondo che sono i giochi olimpici. Bisognerebbe avere 10 mani e 10 occhi, scherma che sta dicendo 40-28 per l'Italia contro l'Ucraina in questa che è la semifinale della squadra del torneo a squadre di spada. E cosa fa la testa, eh? 41-28 in questo, sì, momento. Pietro Nicolodi, voce di Fox Sport, ore 20:30. Questa sera Westfalenstadion, Borussia Dortmund, Bayern di Monaco, comincia la stagione del calcio tedesco, finale di Supercoppa. La finale di Supercoppa che Guardiola non ha mai vinto. No. Che Ancelotti, diciamo, questa sera potrebbe invece portarsi a casa. Diciamo che Ancelotti può partire meglio rispetto a Guardiola. Poi, sai, conta fino a un certo punto. Leggevo tra le varie statistiche strampalate che vengono fuori in occasione di queste partite, che solo due volte che ha vinto la Supercoppa poi ha vinto il campionato alla fine della stagione. Evidentemente Guardiola aveva letto qualcosa di simile e impostava tutto sul perdere questa partita, anche perché la snobbava totalmente, non metteva mai i titolari al loro posto, faceva giocare formazioni completamente sconclusionate, si interessava insomma relativamente alla vicenda. Qui arrivano tutte e due le squadre a livello cantiere praticamente, perché sono allenate al completo da pochissimo tempo, come è normale che sia, nazionali, un po' di gente alle Olimpiadi anche per il Borussia Dortmund, insomma è, beh, è poi, tipo... poi Borussia Dortmund è profondamente cambiato in questa estate, ha perso Hummels, proprio. Gundogan, Mkhitaryan, sì, soprattutto direi a livello di impostazione del gioco Gundogan è l'uomo più importante di quelli che hanno perso, ma anche Hummels era uno che costruiva tanto. Armeno è molto forte, ma secondo me si può anche sostituire all'interno di una squadra, così come tutto sommato si può sostituire anche Gundogan, visto che non ha mai giocato l'anno scorso. Però insomma, ne hanno presi 8, è un record. Torna Götze, preso Schürrle, che sono due buonissimi giocatori, ma che vengono da annate abbastanza contrastanti. Insomma, è un progetto interessante. È il primo vero grande esame della carriera di Tuchel, dopo, sì, l'ottima stagione scorsa. Ma anche il Bayern è un esame per Carletto Ancelotti. Ovviamente non si misura sulla Bundesliga, si misura sulla Champions League, dove Guardiola ha fallito. E credo che da questo punto di vista Ancelotti abbia un vantaggio. Sì, da un certo punto di vista sì, sei fallito, è arrivato tre volte in semifinale e quasi mai ha potuto giocarla con la sua squadra al completo negli ultimi due anni, è sempre mancato qualcuno e quel qualcuno era Arjen Robben. Se ne parla molto in questi giorni, qualcuno dice, pensa che se Arjen Robben dovesse tornare a essere quello di una volta, allora il Bayern è un tipo di squadra, se invece non dovesse tornare per la Champions non ci sarebbero troppe chance, però anche qui insomma, stiamo a vedere quello che succede. L'importante secondo me per una squadra che gioca la Champions League è passare i gironi facilmente senza mai soffrire e arrivare al primo posto. Poi tutto quello che succede da febbraio in poi è anche legato a circostanze. Insomma, sì. Bayern è un'ottima squadra e a volte va a fortuna, a volte no, e è capitato di andare fuori. Sì, però evitarsi un sorteggio scomodo, no, quello è fondamentale, è sempre fondamentale. Carletto Ancelotti è l'uomo della Coppa, quindi uomo che conosce alla perfezione questa regola, e comunque Guardiola dal punto di vista dei risultati in Europa, qualunque alibi si voglia tirar fuori, certamente non ha lasciato un ricordo straordinario a Monaco, no. E questo va detto. Guardiola che ieri non ha iniziato nemmeno benissimo in Premier League, ha vinto a fatica col suo Manchester City contro il Sunderland, ha detto datemi tempo per conoscere questo campionato, cosa assolutamente legittima. Intanto Italia in finale per loro nella spada squadre, 45-33 contro l'Ucraina, quindi appuntamento questa sera alle 23:30. Sono veramente molto molto contento. Eravamo un po' pessimisti all'inizio delle Olimpiadi, invece aveva ragione chi pensava che avremmo potuto fare grandissime cose. Grazie Pietro. Grazie a voi. Grazie a Pietro Niccolò di ore 20:30, Fox Sport questa sera, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, finale di Supercoppa tedesca. Io lo ripeto, l'appuntamento è una grande serata, questo per lo sport italiano, alle 23:30, a finale della scherma, spada, squadre con i nostri Garozzo, Pizzo, Fichera e Santarelli. Poi stiamo aspettando anche la medal race della vela per Flavia Tartaglini, poi questa notte c'è Sua Maestà Usain Bolt. Io mi fermo qui, noi torniamo domani a partire dalle 14 con tutti i convocati, poi dalle 18 alle 20 torna Leo Turrini, torna Carlo Genta, tutti i convocati alle Olimpiadi. Io ringrazio Giovanni Melchiori, autore di questa puntata, Pietro Lacorte, Andrea Roccabella in regia. Ci sentiamo domani. Dopo che la bacio, ti ho detto che devi spegnere.